Europa 24. Un saluto da Gigi Donnelli, benvenuti a questo appuntamento con Europa 24. Partiamo dal Trattato di Lisbona, o meglio da un aspetto specifico però importante nella vita quotidiana. Tra l'altro, infatti, il Trattato di Lisbona prevede che un bambino europeo su tre abbia un posto all'asilo nido che appunto lo attenda. Le cose in realtà, come ci racconta Valeria De Rosa, vanno diversamente. Sentiamo. Il Trattato di Lisbona prevede che almeno il 33% degli aventi diritto abbia un posto in un asilo nido, un bambino su tre. Al di sopra di questa soglia c'è la Danimarca, irraggiungibile dall'alto del suo 73%. Un po' più in basso c'è il Portogallo, per esempio, il Regno Unito, la Spagna, il Belgio. Al di sotto della fatidica soglia c'è la prolifica Francia, dove però questo non sembra un ostacolo al tasso di nascita. C'è l'Italia e c'è la Germania. A poche settimane dalle elezioni, il paese della cancelliera Merkel affronta una delle riforme sociali più discusse. Per aiutare le donne a rientrare nel mondo del lavoro dopo la maternità, il governo ha messo mano alle strutture con un investimento superiore ai 5 miliardi, portando il numero dei posti da 550 a 770.000 circa. Secondo la legge, i genitori del bambino che non riuscisse a trovare posto in un nido possono fare causa al comune, che dovrà provvedere a una sistemazione entro 3 mesi. In caso contrario, scatterà il risarcimento. Ma la riforma si occupa anche di coloro che scelgono di tenere i propri figli a casa, con un assegno mensile. Una misura voluta dalla CDU, che ha sollevato forti critiche. Un assegno in bianco ai propri elettori, lo hanno definito gli altri schieramenti. Un ritorno all'idea di donna dedicata solo alla casa e ai figli. A conti fatti, però, solo poche famiglie hanno fatto richiesta per il contributo. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia appena arrivata da Bruxelles. Questa mattina è stato deciso che il 16 settembre sarà riunito ancora una volta il vertice sulla Somalia, quindi il governo somalo e l'Unione Europea, una nuova conferenza per la ricostruzione in Somalia. La conferenza ha lo scopo, sul modello già praticato con altre regioni del mondo, appunto di favorire a costituire le condizioni per il ritorno alla normalità nel paese che ormai da molti anni è travolto dalla guerra. E un'altra notizia invece riguarda gli affari delle Generali Assicurazioni. La Commissione UE infatti ha dato il via libera all'acquisizione di un gruppo di 5 proprietà immobiliari a Parigi nel quadro di un'operazione congiunta realizzata dal gruppo Generali e dalla banca centrale norvegese Norges. Dall'esame dell'operazione, osserva Bruxelles, non è emerso alcun elemento di preoccupazione per quanto riguarda gli effetti dell'acquisizione sulla concorrenza. E ora il suggerimento quotidiano di Federico Taddia. Sono Federico Taddia e oggi vi voglio segnalare alcune opportunità di servizio volontario europeo. La prima riguarda un periodo di 6 mesi, con inizio ad ottobre, a Las Palmas, nelle isole Canarie, in Spagna. Si cerca un uomo tra i 18 e i 30 anni che verrà coinvolto in attività di comunicazione, promozione ed organizzazione di eventi per i giovani. Si cerca invece un volontario per un progetto della durata di 11 mesi, con partenza a settembre, che si svolgerà nella periferia di Dublino. Temi della proposta: arte, musica, teatro e digital media, per attività finalizzate a ragazzi e bambini che vivono in situazioni disagiate. Infine c'è posto per 3 volontari per un progetto in Romania della durata di 4 mesi, sempre da settembre, per lavorare all'organizzazione e alla gestione di alcuni eventi, tra cui il Festival di Musica Rock che si tiene ogni anno a Iasi. È richiesta una discreta conoscenza della lingua inglese. Tutte le informazioni si trovano al sito www.scambieuropei.com. E naturalmente su radio24.it con questo è tutto. Un saluto da Carmelo Lauricella in regia, da Gigi Donnelli al microfono. L'Europa, Europa 24, torna come sempre domani intorno alle 13.15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.